guardi che adesso io glielo dico, non lo dico in giro. Sgarbi una volta, durante una diretta televisiva, ha fatto una scorreggia spaventosa, hanno fermato subito la trasmissione, perché ormai appena entra Sgarbi fermano la trasmissione e non la fanno più. È una cosa, guarda. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Diciotto e 30, apriamo il tombino. 18 e 32, scendiamo la scaletta. 18 e 34, plaf, siamo immersi fino al collo nella fogna della zanzara. Questa non è male, eh? Questa non è male. Buono. La zanzara è importante come respirare. Dovreste chiamarla la zanzaria. Pubblicità. Il principe, ragazzi, il principe Emanuele Filiberto. Il principe, lo il, principe, principe? Il principe. Beh, viene non da un casato, viene da un casato molto nobile. Non viene esiste da... il principe. Vittorio Emanuele III è scappato con la coda tra le gambe l'8 settembre, ha abbandonato l'Italia, se n'è andato con Badoglio, via, lasciando il paese in mutande di tela. Non esistono principi, esistono solo minchioni. Sono scappati via. La monarchia, via, è scappata via dall'Italia. Vabbè, non esiste, ma che c'entra? Casa regnante non c'è, unico paese in Europa, l'Inghilterra è una casa regnante. Non impazzito. Farmi arrabbiare che ho le coronarie oggi, mi sono sì, proprio non farmi, cerchiamo di far capire, sono donato da Varese, mi viene la cerchiamo di da far capire, non cerchiamo di far capire, non chiama, non chiamarlo. Vabbè, ho capito, principe. Quello si chiama principe, ho capito, non chiamarlo allora ecco cosa ha scritto il principe, perché sì. Ne parliamo in apertura della sì. Zanzara di questa settimana. Ha scritto una frase su Twitter, poi dice che gli hanno hackerato il, sì, il chi è stato profilo. Badoglio è stato, chi è stato? È stato Badoglio ad hackerarlo. Da dove? Dall'alto, dall'alto. Ma ragazzi, i parassiti partigiani, ecco, con le loro 179 associazioni, costano al contribuente 3 milioni di euro, dice 3 dire? Milioni di euro. Questo ha detto, qualcuno è entrato nel mio account e ha mandato articolo su partigiani volendo cavalcare la diatriba sulla mia visita a Noto, mi dispiace. Ragazzi, a me non me ne frega un cazzo, hackerato, non hackerato, è uscito col profilo di Emanuele Filiberto. E ti dico la verità, caro Parenzo, che certamente non è lui a doverlo dire. Però il fatto che ogni anno noi sborsiamo 3 milioni di euro. Bisogna vedere uno se è vero, due 3 è giusto. Milioni di euro. Se è vero è giusto. Per darli a 179 associazioni che si rifanno al mondo partigiano. No, no, si rifanno, al mondo testimoniano, partigiano. Testimoniano basta, un pezzo è una di storia finita, 3 milioni di euro. Che viene messa in discussione ogni giorno. Cancellare, peraltro, come vedi. Cancellare che in Francia questi cancellano soldi. Il 14 luglio, cancellare secondo me questi Francia. Soldi, cancellare ma questi che soldi. Cancellare. Chiamiamo il principe, dai! Pronto? Sono Cruciani. Ciao, come stai? Sono in una riunione. Quando ti posso chiamare? Una riunione di partigiani. Quando ti posso chiamare? Tra 2 ore. Tra 2 ore? Va bene. Mi raccomando, Avanti Savoia. Avanti un cazzo. Ma scusa, i principi fanno anche le riunioni. Ma, sono in una riunione. Ragazzi, ma si chiama il principe, non c'è cazzo da fare. Ma dai, su. Ma il principe. Il nonno è scappato via. Vabbè, ma sti cazzi adesso che è scappato sti via cazzi, il nonno. Niente, dai, sti cazzi. Adesso parla lui di partigiani. Ma di che stiamo parlando, ragazzi belli? Su. Che si occupi della Juve, che l'unica roba che sa è la Juve. Allora, succedono cose incredibili, come sapete, la storia del presunto pedofilo, oppure pedofilo, chiamatelo come volete, questo che è in carcere a Napoli ed è stato preso a calci, a pugni, pare che non sia molto grave, dai suoi compagni di carcere. Ora dico una cosa molto semplice, ragazzi, a tutti piacerebbe dare un pugno in faccia a un pedofilo e anche ucciderlo, forse, però... Che criminali che sono in carcere se la pigliano coi pedofili. Io l'ho sempre trovata un'aberrazione, non c'è niente da fare. Dico anche una cosa controcorrente, perché è facile dire morte al pedofilo e per me dovrebbero crepare, non c'è dubbio, tutti quanti noi pensiamo che i pedofili dovrebbero crepare. Però bravo. che dei criminali, magari anche pluriomicidi, magari anche omicidi, che hanno ammazzato la moglie, il padre, la madre, magari non hanno ammazzato un bambino, non hanno violentato un bambino, si permettono di prendere a pugni perché non hanno un cazzo da fare, o per vendetta, o perché c'è un codice del... Mi fanno impazzire queste cose. Il codice del carcere. Ma che cazzo è il codice del carcere? Che cazzo vuol dire? E poi perché si permette... Cioè le guardie carcerarie, non so chi, permettono a un signore che accusa... Sapendo questa cosa, a un signore accusato di pedofilia di venire a contatto con altre persone. Cioè perché viene permessa una cosa di questo tipo? Questa è la cosa grave. No, ma poi tanto lo Stato deve tutelare i criminali, il punto è solo questo. Ma certo, ma che questo signore qui, che per me... Se è colpevole deve passare le peggiori pene dell'inferno e non mi interessa la sua sorte. Le peggiori non mi pene previste dal codice, cioè l'ergastolo, sì, ragazzi. Sì, certo, basta, certo. Fine, allora, che questo qua venga aggredito da altri criminali e qualcuno applauda, qualcuno ti fa così, applaude di fronte a criminali loro pure, che aggrediscono uno semplicemente perché vogliono menare le mani, perché aggredisci uno? Ti incarcerano, che cazzo ti frega se quello è pedofilo, scusa. Bravo, certo, bravo. Allora, il papà di Fortuna, che è quella che lui avrebbe violentato e poi buttata dalla finestra, no? Poi pare che escono fuori adesso storie di altri violentati in questo palazzo dell'orrore a Caivano, Napoli, eccetera. Sì, ma eccetera. Lì è tutto un casino, è un posto pazzesco, un inferno. No, ma quel posto lì omertà. Vabbè, ma tutte cose poi da verificare, sì, tutte cose da verificare. No, questo non è da verificare, questo è un dato di fatto che c'è anche. Ma lui nega, lui dice di essere innocente. Indagini della polizia. Lui dice, no, lui... l'omertà di tutta quella zona, sì, lì, certo, di tutta vabbè, quella. Questo è un dato di fatto. Loffredo, si chiama Pietro Loffredo, che è il papà di Fortuna, senti che dice. Chiede che quell'uomo prima non esca più dal carcere, normale, ma di avere proprio un carcere duro. Voi la legge italiana ai mafiosi ci dà il 41 bis, a questi qua che ci devi dare? Peggio del 41 bis. Peggio del 41 bis. Ancora Loffredo, che è il papà di Fortuna, ragazzina uccisa. Chi è che ha fatto più schifo, scusate il termine, in questa storia? Sono proprio loro, a parte l'orco, ma anche proprio il palazzo, che hanno 65 cimici, l'hanno distrutto tutto. Cioè, volete pensare, una bambina, un angelo che hanno buttato giù, hanno ucciso. Allora ragazzi, oggi ho letto che dei signori di un sindacato, cioè non dei centri sociali, non pancabestia o altri deficienti del genere che magari vogliono menare le mani, ma i signori di un sindacato che si chiama, credo, una sigla, non mi ricordo come cazzo si chiama, UBS, ci sono tante sigle sindacali, forse UBS, pure troppe, UBS. Hanno praticamente protestato di fronte a Zara qui a Milano, qui dove mi trovo io, Parenzo si trova a Roma, qui a Milano, contro il fatto che Zara apre il 1° maggio, cioè contro il fatto che le persone lavorano, cioè è la festa del lavoro, ci sono delle persone che lavorano, che vengono remunerate, che vengono pagate, perché non è che Zara è fuori legge, Zara fa le cose in regola, apre grandi magazzini a Milano, tutto in regola, pagheranno quello che devono pagare secondo le norme di legge. Delle persone, non so per quale motivo, sono andati davanti a Zara a Milano a prendere a male parole, scontrandosi poi naturalmente con le forze dell'ordine, la polizia, il servizio di sicurezza, quello che minchia è, per protestare contro quelli che lavorano. Cioè, ma ti pare una cosa normale? No, adesso io le modalità di quella protesta senti. Il 1° maggio non si lavora. Il 1° maggio non si lavora. Il 1° maggio non si lavora. Siete delle bestie. Siete delle bestie. Cioè, questi dicono bestie ai lavoratori, capito? Una specie di bestie da soma praticamente sarebbero. Ma questi non si vergognano? Beh, no, adesso bisogna vedere i termini, perché spesso non bisogna vedere niente. Sì, sì, bisogna vedere perché spesso il lavoro della domenica non è retribuito. Ma che cazzo dici? Ma secondo te Zara è fuori legge in Italia? Ma che dici? Ma che dici? La gente viene pagata secondo le normative di legge in Italia? No, ma che minchia dici? Dai, su. Guarda, io ho parlato nei grandi magazzini. Conosco Zara, non lo so, ti ripeto, su, ragazzi, conosco, non diciamo, un sacco di amici che ad esempio fanno i camerieri nelle zone vicine dove abito io. Proprio il primo maggio sono andato a fare una piccola inchiestina in giro. E poi devo dirti la verità, ho scoperto che non vengono pagati. Ne usufruisco anch'io. Ne usufruisco anch'io. Cioè, se tu basta vieni, con se questa tu storia che uno viene pagato di più la domenica e festivi. Basta, è una ragazzi, puttanata. Tu ne basta. Parli perché tu basta, hai quel diritto. Basta. Ma come la puttanata? Toglietemeli. Toglietemi i soldi. Toglietemi i soldi. Non ma me ne frega un cazzo. Toglietemi i soldi. Auguro, benissimo, mi tolga i soldi. Mi tolga i soldi. Mi tolga i soldi oggi. Mi tolga i soldi. Ma lo faccio assolutamente. Mi tolga i soldi. Lo deve fare subito. Non mi interessa. Mi devono togliere i soldi. Non mi interessa. Qualcuno che conosci tu. Fate presto. Toglietemi i soldi. Non mi interessa. Allora, toglieteli e dateli a me e a tutti gli altri lavoratori. No, allora, beh, a te, io, no, che c'è te io se lavoro beh, la domenica toglietemi i soldi festivi, del primo maggio voglio essere pagato come da dire il doppio. No, basta il doppio. Fine. Ma che sei impazzito? In genere il primo maggio vuole pagato il doppio. Senti, senti ancora le voci di questi rincoglioniti davanti a Zara. Senti. Ma guardati, guarda, ti stanno picchiando, ti stanno picchiando. Aspetto fuori! Gli avete rotto la gamba! Metti giù sta gamba di sta male! Ma metti metti giù le mani! Ma hai visto che sta male? Giù le mani! Allora, a Roma si è accesa una, in questo casino che sono le elezioni comunali di Roma, si è accesa una piccola discussione tra la Raggi e la Meloni sulla questione della droga, sulla questione della legalizzazione della droga. La Raggi, che è il candidato dei 5 Stelle, ha detto, secondo me giustamente, che è fondamentale, poi non è che si è esposta più di tanto, perché sa, il comune, non è che decide il comune se legalizzare appunto la marijuana oppure no. Comunque ha detto che siccome i 5 Stelle hanno presentato un disegno di legge in Parlamento, che è fondamentale sottrarre la cannabis alla criminalità. E fin qui, io lo sai come la penso su questa cosa qui. Anch'io. Ha ragione la signora Raggi. Il Movimento 5 Stelle in Parlamento ha presentato un disegno di legge per la regolamentazione della cannabis e in realtà è opportuno aprire un dibattito su questi temi, perché è opportuno aprire un dibattito, è una cazzata democristiana, vabbè, ma questo è normale che lei lo dica, perché c'è già un dibattito da tantissimi anni. Non è opportuno aprire un dibattito, o si decide da una parte o dall'altra. Il dibattito è l'abbiamo già fatto da 40 anni che si parla di queste cose. La Meloni, senti che cosa dice. Poi Giachetti ha detto brava la Raggi, anch'io sono a favore della legalizzazione della droga leggera. Senti che cosa ha detto la Meloni. La geniale soluzione della candidata del Movimento 5 Stelle per combattere gli spacciatori, la diffusione della droga al Pigneto è legalizzare le droghe. Ora sicuramente gli spacciatori ora sanno per chi votare. Allora, questa frase qua, gli spacciatori sanno per chi votare, è una puttanata inaudita. Perché in realtà, se passasse è il contrario. Se passasse l'idea della Raggi, bravo, sarebbe esattamente il contrario. I primi a essere danneggiati sarebbero per cui la Meloni non sa cosa il dice. Mercato. Al contrario, anzi, gli spacciatori dovrebbero votare contro gli spacciatori. Saranno qualche migliaio a Roma, non lo so, forse meno, qualche centinaio a Roma. Dovrebbero votare a favore della Meloni, perché il proibizionismo sulla droga aiuta gli spacciatori, cioè gli spacciatori di strada. Cioè gli spacciatori quelli così, no? Che ti vendono la cocaina, l'eroina, che non è che sarebbero eliminati se ci fosse la legalizzazione. Ma sicuramente, guarda che succede là in Colorado, bravo, dove non è che c'è gente lucido che lucido oggi. Ma bravo, non è che stranamente lucido, ho sempre pensato a queste cose. Non dici dire delle cose no, anche sul resto hai detto delle cose lucide. Ecco, per detto, ora. Dai, ho detto per quello ora che penso, come sempre. Sì, dai, no, per tu ora dici cose lucide. Dopo ti dico senso una cosa, però adesso fra poco. Aspetta un attimo e ti dico un'altra cosa. Quando sento il traffico divento pazzo. La Zanzara. Ma siete due somari, andate a casa, andate a lavorare, barboni. Grazie, siamo molto orgogliosi di questo, almeno io, siamo molto orgogliosi. Ragazzi, se volete risentire, molti di voi l'hanno già riascoltata, quella specie di rissa che c'è stata, poi molti la chiamano rissa, vabbè, e dicono anche io vado a cercare le risse, cosa ovviamente non vera, ma chi se ne frega. Con il signor De André dovete aspettare fra un po', con alcuni commenti miei e degli ascoltatori alla vicenda Cruciani, Parenzo, anche in parte De André. De André. Comunque il mondo è impazzito, in questi giorni che vanno dal 25 aprile in poi, il mondo è impazzito. C'è il capogruppo di Forza Italia a Bologna, un ragazzino che si chiama Bignami, che era pure candidato a un certo punto, poi alla fine hanno dirottato su una della Lega, quella che va nei campi rom, là, la Bergonzoni, come diavolo si chiama? Bergonzoni. Sì, è un tale Bignami, ripeto, che si è vestito da nazista e dice era il mio addio al celibato. Dice una goliardata di 10 anni fa. Beh, niente di più essere. Sì, no, d'accordo, però non è che adesso uno non è che per l'addio al celibato si veste da nazista. Tu ti vestiresti da nazista per l'addio al celibato? No, dai. Potrei allora, vestirmi un momento. Allora, gli immigrati e il rancio, chiamiamolo rancio ma in realtà non è rancio, abbiamo scoperto qual è il menù della famosa mensa di Reggio Emilia dove gli immigrati hanno protestato per il riso scotto. Ho fissato con i menù, sei. Il lunedì pasta al burro con fagiolini o piselli, filetto di pangasio. Già fare, scusa, ma già fare la pasta al burro, ma si fa la pasta al burro con le fagiolini pasta e piselli? Pasta al burro con fagiolini o piselli. Ma tu hai mai mangiato, sinceramente, si fa la pasta al burro con fagiolini e piselli insieme? L'hai mai mangiata tu la pasta al burro? Non c'è niente di male. Con i fagiolini e piselli, i fagiolini e piselli sono un contorno, cioè si fa la pasta con le zucchine e l'olio, ad esempio, pasta al burro con fagiolini e piselli non va bene per gli immigrati, va bene. No, ma per gli immigrati in generale non mi pare una filetto di pangasio alle olive e patate fritte e in più naturalmente dessert vari, frutta a piacimento. Martedì trionfo, perché non dici trionfo di frutta come nei ristoranti martedì, quelli di serie, ripeto, di sale, mensa, trionfo di frutta mensa per gli immigrati a Reggio Emilia. Però martedì pasta al tonno, bocconcini di pollo al curry, insalata mista. Mercoledì minestrone di verdura con riso, scaloppine di tacchino al limone e insalata mista. Giovedì penne all'arrabbiata, svizzera al vapore, anche la svizzera al vapore che in realtà poi credo che sia un hamburger, patate al forno, pezzo di carne al vapore. Venerdì pasta al pomodoro, filetto di pangasio alla mediterranea, c'è pure specificato alla mediterranea, capito? Sì, vabbè, sarà insalata con delle mista. Olive, fine. Vabbè, intanto alla mediterranea. Cioè, non è tanto che... alla mediterranea. Hanno mangiato il pangasio, che non si sa neanche che cazzo è il pangasio. È un pesce. Alla mediterranea. Ma guarda che sei veramente... Sabato, legge il menù, spaghetti, aglio, olio e peperoncino, spaghetti, spezzatino di pollo in bianco, più verdure al vapore. Verdure al vapore, quelle che si mangiano nei ristoranti orientali, verdure al vapore, no? Trionfo di verdure al vapore. Domenica penne, burro e formaggio, sgombro in umido, insalata mista. Questo è il menù. E c'è anche, attenzione, c'è anche il pranzo al sacco per la sera, cioè il sacchettino per la sera, per la sera ti danno, ti consegna. Tu quante volte al giorno mangi? E io pago. No, paghi, questo io pago anche io per tu gente. Tu paghi, anche tu, tutto questo paghiamo noi. Va bene, va welfare, bene, per carità, però paghiamo noi. Ma che welfare, paghiamo noi. Partiamo? Partiamo, dai. Alessio Agrigento, vai. Buonasera. Dimmi. Mi sentite? Sì, basta che togli, il viva voce o qualche altro. No, il viva voce non ce l'ho. No, niente, ho sentito che avete parlato di diverse cose e insomma, sentire la protesta dei sindacati che protestano davanti a Zara un po' mi lascia perplesso, perché oggi sei perplesso per questa cosa. Poi andiamo avanti. Il mondo del lavoro è cambiato. Sì, è cambiato, certo. Si lavora anche la domenica, certo, non c'è dubbio. Certo, vabbè, io ho lavorato anche le notti di Capodanno, Ferragosto, quindi voglio dire... Robbe fuori dal mondo, dai, robe fuori dal mondo, poi? E poi niente, sono rimasto senza parole per quanto riguardava anche quella faccenda della mensa dove la pasta era scotta, di cui avete parlato diversi giorni fa, gli immigrati, la delegazione di immigrati che va da un... Vabbè, ma lo sappiamo, sei rimasto colpito per questo, poi... E poi niente. Arrivederci. Francesco dalla provincia di Campobasso. Buonasera. Dimmi. Allora, io non capisco quello che è successo a Reggio Emilia, perché questi immigrati che prendono 30 euro al giorno vanno presi per il culo, vanno presi e buttati fuori dall'Italia. Non ho capito, scusa. Vanno buttati fuori dall'Italia, che cosa vuol dire? Tutti questi che rompono le palle, perché non solo... prendono 30 euro al giorno, 35 in alcuni casi, ma comunque 30-40 euro al giorno devono essere presi e buttati tutti, fuori dall'Italia, tutti, perché c'è gente che non arriva a fine mese, c'è gente che italiana che va alla mensa della Caritas, sì, e non si lamenta, fa la fila come tutti ogni giorno e non si lamenta. Cioè, a te è dato fastidio la lamentela, soprattutto la lamentela di questi qua dal questore, oppure dici che comunque devono essere cacciati tutti? Non ho capito. Tutti vanno presi, tutti cacciamo. Come si cacciano, per esempio, perché, concretamente? Perché loro si comportano così perché vengono trattati bene dal nostro paese, perché se il paese... No, tra l'altro credo che abbiamo tolto anche in questa mensa di Reggio Emilia, di cui abbiamo parlato spesso la settimana scorsa, hanno tolto anche il ragù di carne, per non offendere naturalmente quelli di religione musulmana. Dovresti essere contento che costa anche meno, quindi. Ma non lo so, hanno tolto il ragù di carne, c'è anche l'adattamento, capito? L'adattamento... No, se uno, guarda, che anche in carcere i detenuti di fede diversa ti danno un menù, ma non è per questo che gli fai un favore. No, perché? Però cioè, ho detto, ragazzi, non ho il menù di è l'Occidente, Marco, è la, provincia è di Como, un paese vai. Che riconosce Marco, come, provincia di Como. Tutte parole sprecate. Ma no, vabbè, perché sprecate? Sono io. Vai, dimmi Marco, io, Marco, sì, vai. Marco, allora, prima di tutto Marco. Voglio farvi sempre i complimenti. Non ce ne frega niente, vai avanti, forza. Marco dalla provincia di Como. Buongiorno. Marco da Como. Dai, avanti con Marco da Como, forza. Ma no, ma non lo so, avanti con Marco da Como, dai, sentiamo. Prima di tutto è una cosa un po' inquietante, positiva. Sì. Tutti mi scambiano per Cruciani. Cioè, io sono uguale a te, Cruciani, sei un figo. Vabbè, c'è un cazzo da fare. Ma sono uguale hai a te. Detto, hai detto la prima cazzata, dai, tu sei uguale a me. No, non è una cazzata, ma naturalmente sono come te. Nel senso che mi lavo poco, sono trasandato, sono un po' un sciupafemme. Ma io veramente non sono affatto trasandato, però comunque va bene. Vabbè, questa è l'immagine che dai di te. Ma lungo, no, allora. Adesso mi sono anche tagliati i capelli. Comunque. Lei puzza pure, anche lei puzza. Per me, no, aspetta. Nel luogo, in alcune persone, il capello un po' lungo. Indice di trasandatezza, a me invece mi frega un cazzo. Indice di vabbè, io ti consideri uguale al sottoscritto? No, vabbè. Non è che mi considerano, cioè ti mando una foto. Guarda, io vabbè, ma adesso non ci tengo, francamente. Comunque, manda una foto ai nostri indirizzi, eccetera. Siamo due fighi, dai, non lo so, non ti conosco. Allora, dice da solo, questa cosa bella. Guarda, se ti mando una foto, tu puoi dire che trovi una certa somiglianza, magari uguali. Vabbè, dai, vabbè, allora. Mi piace tutto quello che dici, tutto quello che pensi. Vabbè, Marco, ma ci hai fatto due coglioni così per un minuto. Aspetta, che adesso arriva il bello. Se no, qual è il bello? Qual è il allora, bello? Allora, io appena ho acceso la trasmissione, ho sentito che parlavi del pedofilo. Ma adesso hai perso un minuto e ti dobbiamo richiamare, amico mio, perché tu hai perso un sacco di tempo dicendo che sei uguale a me, cosa che può anche essere, perché non è che sono, come dire, no, fisicamente ci sono dei tratti comuni con un sacco di gente. E ci sentiamo tra un quarto d'ora, perché adesso ci sono le notizie. Oh, ragazzi, sono al casello di Carisio e sto ridendo. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Ma ci rendiamo conto che ci vuole la zanzara per risolvere problemi che dovrebbero essere risolti dalle istituzioni? A me viene in mente che se questa persona fosse magari ben lampadata e si dichiarasse migrante proveniente dal Nord Africa, forse lo aiuterebbero istantaneamente e gli darebbero anche tanta pasta scotta. Allora, un signore, a proposito della vicenda pedofilia di Napoli, un signore... Intanto buonasera e bentornati in diretta alla Zanzara. Ma che cazzo fai? Sei impazzito, sei buonasera, bentornati in diretta, sei, sì, sei buonasera, pazzo. Ma non sono diretta. Parole da cancellare. Allora, un tizio che pare che sia stato anche candidato dell'Italia dei Valori a Ponte Cagnano, che si chiama Fiorillo, scrive: se la giustizia confermerà la colpevolezza delle bestie di Caivano, che hanno ucciso Fortuna ed Antonio, sono pronto a dare 100.000 euro di ricompensa a chi ucciderà queste merde. ci sono mille modi per finire dietro le sbarre. Questo è ex Italia dei Valori, questo? Sì, candidato alle regionali, mi dicono e mi segnalano. Ci sono mille modi per finire dietro le sbarre, ma per vendicare due angeli sono disposto anche a questo. C'è questo tizio qua, che è anche, credo, un commercialista o un qualcuno, insomma, inserito nella società, cioè non è una bestia né un... né un parente dei bambini, no? Che hanno subito violenze o che avrebbero subito violenze. Se la giustizia confermerà la colpevolezza delle bestie di Caivano, meno male che fa anche questa premessa, che hanno ucciso Fortuna e Antonio, sono pronto a dare 100.000, una specie di taglia, 100.000 euro di ricompensa a chi ucciderà queste merde. Verrebbe da dire cosa non si fa per un po' di voti, verrebbe da dire. Ma no, dire, ma non credo che sia più candidato. Io non guardo in faccia a destra, a sinistra, a Salvini, cioè questo è un uso politico della cronaca, come ho detto altre volte, come alle volte lo fa la Lega, Marco, questa volta lo fa provincia di Como. Non perché so... sono voti facili quelli così. Marco sono... provincia di Como. Ma non so se questo sia candidato. No. Dice una cazzata, okay. Perché cazzo vuol dire? Pago dice una cosa di pancia che parla a una parte dell'elettorato, sicuramente. Adesso poi è chiaro che non è realizzabile. Marco, no? Mi pare provincia evidente. Di Como, vai. Adesso non mi perdo più via perché prima di fare i complimenti. Adesso ti dico quello che ti devo dire, perché adesso mi girano i coglioni. Pronto? Sì, vai. Sì. Avanti, avanti. No. Questo pedofilo, che non sarà il primo, non sarà l'ultimo, stronzo che ha violentato questa bambina, Fortuna, a me, sinceramente, che se è in carcere lo prendono a calci in culo, sprangate in bocca, a calci nei coglioni, non me ne può fregare di meno. Ecco, stato di diritto. Sono eccolo. Stato chiaro? God, questo ecco. È il mio pensiero. Sì, tra le bestie va bene, certo, nella no, bestialità... No, un cazzo! Perché tu non ti permetti di violentare una bambina e buttarla dalla finestra. Ma questo non c'è merda. Dubbio. Ma guarda che non è che chi difende il fatto che un criminale in galera non venga toccato difende e accetta che un bambino venga violentato, perché deve ma finire questa roba, di quello che tu difendi pure tutto quello ma che io vuoi, non difendo niente, io difendo un principio che nelle carceri italiane si sconta la pena per quelli per cui si è condannati e non si viene menati come in Sud America. Va a farsi fottere il principio, perché dopo che tu fai una cosa del genere, non sei una merda, non sei un essere umano. Questo non c'è dubbio, ma che c'entra questo? Se io fossi una guardia carceraria, sì, che vedo che stanno pestando questo figlio di troia qua, mi giro dall'altra parte, anzi gli do anche una mano. Hai capito? Questo è il mio pensiero. Probabilmente spesso è successo questo, non in questo caso. Succede questo non in questo succede. Caso, ma spesso è successo. Sì, spesso. Sì. Io posso ammettere tutto quello che volete. Se le piace che nelle nostre carceri non ci sia stato di diritto, ma questa situazione qua va bene. Però scusami, Marco, adesso io non voglio fare quello, per carità, lo sai che non è la mia natura di essere quello. Lo so, però quello che rispetta le regole. No, non ho detto questo. Devi essere quello che rispetta le regole. Dico semplicemente. Ma le regole cosa? Prendi una bambina che un angelo. Ma questo non c'entra nulla. Questo non è in discussione. La butti dalla ma stella. È ovvio che fa schifo, è evidente, no? Ma che c'entra? Schifo, altro che schifo. E allora, ok, io sono una persona civile, io posso ammettere tutto, ma non la violenza. Ma che no, non dica che è una persona civile. Ecco, dimentichi di dire che è una no, persona. Lei non è... Con quegli esseri lì, non sono civile. Bene, allora fate, cambiate il codice e dite che per alcuni... Per alcuni delitti è lecito pestare i detenuti Marco, in carcere. Marco, se facciamo passare questo principio, che un pedofilo in carcere, in carcere, può essere picchiato. Esatto. Secondo te? A me non me ne frega un cazzo. No, vabbè, ma tu puoi anche. Anch'io la mia reazione è non me ne frega un cazzo, figurati che me ne frega. D'accordo? Se facciamo però passare questo principio, allora a quel punto vale tutto. Allora, perché uno che è un serial killer che magari ammazza 10 persone. Vale tutto. Allora, però i bambini dice una cosa diversa. I bambini è una cosa diversa. È lo schifo di questa bambina violentata, costretta, e poi perché non ci stava, e non sarà la prima, non sarà l'ultima. Questo schifoso porco, lo posso dire, l'ha presa e l'ha fatta buttare dalla finestra. E non è la prima e non è l'ultima, perché ce ne saranno altre. Ho capito, Marco. Andiamo a Pordenone. Eugenio, vai. Eugenio? Un preambolo. Dimmi. Allora, se non pensi come Parenzo, allora Parenzo auguro che tua moglie ti attenda a casa col bastone nodoso. Ecco. E io invece auguro a Parenzo che trovi la moglie a casa che lo attende con una bella merchia sugosa. Ma perché? Ecco. Non ho capito. Qual è il punto? Ma chi è questo qua? No, perché lui deve sempre venire fuori con questo? Le sue sparate. Se ma non chi la è pensi questo come qua lui. Che parla? Comunque, chi vabbè, è Eugenio, il dai. Problema? Non ho capito perché Parenzo dovrebbe essere... Non ho capito chi è sto schifoso che parla. È qual è? Qual è? Il Palazzo degli Orchi, la soluzione? Qual è? Riferimento allo stato di diritto e serial killer. Allora, intanto il tipo che è in galera... in America, mi pare che esista lo Stato di diritto, sì, al mostro di Milwaukee l'hanno messo in cella assieme a un certo Christopher Scarver, schizofrenico, sì, che lo ha ammazzato. Sì. Quindi ecco lo Stato di diritto che mi piace per il capo degli orchi. Cioè dice, invece, il capo degli orchi va ammazzato in cella, va ammazzato in cella. In cella. Sì, no, ma lo lasci con lo schizofrenico, questo ha detto che è stato ispirato da ispirazione divina e ha ammazzato. Cioè tu dici, questo signore qua, che peraltro fino adesso si proclama innocente, però sarà sicuramente colpevole, avrà violentato bambini, sarà sicuramente il pedofilo più grande del mondo. Questo qua va messo insieme in cella uno che lo deve ammazzare, che lo può ammazzare, tu dici. Lo metti assieme a un, che ne so, a un violentatore seriale, che ne so, a qualcuno, e poi così lo lasci. Schizofrenico, quelli che vedono Dio. Lo schizofrenico, non è che gli schizofrenici stanno in galera così da soli, vengono messi, cioè lo devi mettere apposta insieme a quello là, lo devi mettere apposta insieme a un altro mostro. America, però, il mostro così si ammazza. Adesso non mi ricordo la fine del mostro di Milwaukee in America, francamente. Beh, ha fatto questa fine qua. Dubito che in America mettano quelli accanto per farsi per ammazzare tra di loro, però magari lo fanno, non lo so. No, vabbè, poi col palazzo degli orchi a Caivano che va fatto, col palazzo degli orchi, allora, a Caivano, che va fatto invece? Sì, ti accerti che tutte le famiglie siano all'interno. Sì. Chiami fuori tutti i bambini, sì, lasci gli adulti, nonne, madri, padre, i condomini, sì, omertosi, sì, tutto dentro e dai fuoco. Cioè dare fuoco al palazzo degli orchi. Mancava alla tragedia, dalla tragedia si arriva alla farsa di, come si chiama questo demente qua? Eugenio da Pordenone. Eugenio da Pordenone. Nerchia sugosa, sì, ti sta attendendo a casa la moglie. Ma perché Eugenio da Pordenone? Non capisco. Bella nerchia sugosa. Il povero Eugenio da Pordenone, cioè, che è sta facendo. Ma Lorenzo, è facile parlare quando non si viene toccati dalle cose. Eugenio da Pordenone. Eugenio da Pordenone. Eugenio da Pordenone, Eugenio da Pordenone, è una settimana che provo a telefonare all'800-24-0024 per dire questa stupidaggine, Eugenio da Pordenone, e adesso si sente anche figo per aver detto questa stupidaggine di far saltare in aria un palazzo. L'ho detto, sono stato politicamente scorretto, Eugenio da Pordenone. Ma non ho capito un attimo, tu pensi davvero che quel palazzo lì, ma che mondo di merda viene fuori ad ascoltare sta gente? Ci rendiamo conto che grazie a dei bambini gli inquirenti sono arrivati a, perché gli adulti erano talmente omertosi, ma da questa gente pensate di ricavare qualcosa? No, quindi ma la soluzione è far saltare in aria. Tu lo sai come la penso su un certo tipo di situazioni, soprattutto al meridione, ma non solo al meridione, che sono irrecuperabili. Guarda che chiudere l'omertà esiste anche al chiudere nord, tutto, circondare tutto, controllare i documenti, tutto quanto, controllare metro per metro, eccetera, e imporre lo stato marziale in alcuni posti. Sai come la penso da questo punto di vista? Tu vai oltre, però, dici che quei palazzi, il palazzo degli orchi, va bruciato, no? Sbaglio. Facciamo di quella gente lì. Vada a farlo lui. Che vuole nascondere una persona. Ma vada a farlo lui, vada lui a farlo. Non riuscendo ad inculare un bambino di 6 anni, lo butta giù da un terrazzo. Che cosa facciamo? No, ma con quella persona lì, purtroppo non si può fare niente, è irrecuperabile. Qualcuno sostiene. E chi l'ha nascosto? E chi l'ha nascosto? Cosa fa? Deve essere indagato come viene indagato, peraltro. Sì, indagato, Parenzo, no. Sì, lo Stato di nello diritto. Nello Stato di Eugenio da Pordenone, nel quale per fortuna non viviamo, Parenzo, questo sentiamo. Povero imbecille Parenzo, che sa parlare al microfono. Ma non dal popolo vai. Vai, bravo imbecille, vai a dar fuoco al palazzo. Eugenio da Pordenone, vai, prendi il treno, prendi il tuo treno, vai a Caian, vai lì. E dai fuoco tu al palazzo, Eugenio da Pordenone. Vai, me l'hai detto, vai a farlo. Vai, io vengo lì a fotografarti. Chi può dare fuoco? Scusa, no, ma lui parla. Eugenio da Pordenone è il classico italiano. È il classico imbecille che fa il ganassa. Che dice, bisognerebbe dargli fuoco. Sì, vai, ma vai, Eugenio da Pordenone. Invece di parlare, vai a dare fuoco. Aspetta un attimo, Eugenio. Vai. Odia la tega, tua moglie. Odia la tega in quartine. Ma non ho capito, Eugenio, che c'entra l'anarchia su Gosa? Io non ho capito che c'entra. No, perché Parenzo deve offendere. Io ho offeso Parenzo? Beh, no, sì, comunque non importa. Non ci siamo, siccome il tuo parere lo metto nel sottoscala, ma lo contesto. Siccome lui parla dello stato di diritto, ma che c'entra l'anarchia su Gosa? Non ho capito l'anarchia su Gosa. Di chi è sta anarchia su Gosa? Allora, lui augura sempre il bastone nodoso, io invece a lui auguro la nerchia sugosa. E che sarebbe? Di chi? La nerchia sugosa di chi? Di uno che... La nerchia sugosa di magari un suo vicino di casa che... Vabbè, ma perché devi augurare? No, ma io non frequento i posti che frequenta lei. Non ho capito perché devi augurare. Quindi a Parenzo se lei ha corna. Subito, se lei ha subito qualcosa di recente, non è detto che anche gli altri debbano subirla, sa, caro? Il genio da Pordenone che da questa ruota, bella voce denota quello che, ha, tutti, quello, che, quello che le diverte. Vabbè, ragazzi, fermi tutti. È inutile dire, oh Dio! E dopo da bravo ebreo dirà che c'entrano gli ebrei adesso? Lapidare in piazza mia moglie, mi ha tradito. Fermo. Ma questo è matto. Cruciani, sono dentro una piramide in Egitto e ascolto la zanzara. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. La zanzara. Protestano perché la pasta è scotta. Protestano perché la pasta è scotta. Ma se fino a due mesi fa mangiavi topi morti. Ma visto che si lamentano che la pasta è scotta, basta dargli una cazzo di pendola, un cazzo di pacco di pasta, un po' d'acqua, sale, e se la cucinassero loro la pasta, no che gliela devi dare bella e servita nel piatto. Cazzo. No, ma dico io, se il riso è scotto, lo dirai al cuoco, no? Cazzo te ne frega al questore del tuo riso? Altro che pasta scotta, gli metterai dentro qualcosa io nel loro menù. Questi poverini, immigrati, clandestini, poverini. A Crucià, noi siamo l'unico popolo al mondo che mangia la pasta al dente. Sti cazzo dei pakistani non l'hanno mai mangiata in vita loro. All'estero la mangiano tutti scotta, ma che cazzo vanno? Cruciani, non è detto che siccome uno è immigrato si debba mangiare la merda. Allora, visto che tu sei abituato a mangiare tutti gli animali morti che dici di mangiare, mangiatela tu la merda. Ciao! Ci sono dei poveracci italiani che la pasta la vanno a cercare dentro la spazzatura. E questi ospiti si lamentano della pasta scotta? Che se ne vadano a casa loro, vediamo cosa mangiano. Ma fatemi capire, questi fino a ieri si mangiavano pane e sabbia e oggi vanno a fare i giudici di Masterchef. È tutto finito, ma proprio tutto. Questa è bella però, la conclusione non è male. Non è un caso, Parenzo, che la voce più pro-immigrati, pro-lamentele per il cibo sia quella... soave, soffice di una femmina, di una donna, hai sentito? Sì, sì, l'unica certo, voce sì, di questa carrellata, di questa carrellata. Francesco da Caserta, vai Francesco. Ciao, buonasera. Io Dimmi. Volevo intervenire sulla vicenda del Parco Verde Caivano. Sì, sì. Siccome io ci sono stato in quella palazzina, ci sono stato anche con Parenzo qualche tempo fa, non so se si ricorda. Cioè, Parenzo, tu sei andato nella palazzina quella di Caivano, non ho capito. Sono stato, sì, bravo, sì, però parliamo non ti di ricordi sei, un cazzo? No, sono stato certamente, ancora parli di un anno fa quando lavoravo per Matrix, però sì, sì, sono, sì. Se ti ricordi, certo che ci sono stato. Vabbè, allora? Stavi con me, venne anche la madre di fortuna, perché pensava che... sì, bravo, stavo... certo, come no, certo. Proprio la madre di fortuna che pensava che noi stessimo girando un servizio... Bravo. Mentre noi stavamo facendo altro. È verissimo, bravo, sì, che poi sì, ci hanno preso quasi niente. A sassà. Ho capito, c'è più di un anno fa, sa quanti servizi ho fatto in esterna. È successo sì. che poi siamo scappati poi con la macchina perché ci stavano per prendere a sassate. Sì, sì, mi ricordo perfettamente. Vabbè, allora certo. Francesco non ho capito. Allora io voglio dire questo, fermo restando la tragedia che ha colpito questa, questa famiglia, perché io mi inchino alla tragedia, sì, e prego in Dio che la famiglia abbia forza per superare tutto. Ma è inutile che il papà e la mamma di questa bambina adesso puntino il dito contro la Palestina, perché loro sono uguali a quella gente che sta là dentro. Cioè? Uguali, se fosse capitata ad un'altra persona, loro avrebbero tenuto lo stesso comportamento. Cioè, sarebbero stati zitti, dici? Com'è? Sarebbero stati zitti lo stesso? Sì, anche loro. Se sarebbe capitata questa situazione, se fosse capitato, sì, famiglia, anche loro avrebbero mantenuto lo stesso comportamento. Cioè, come fai a saperlo? Perché hai conosciuto quelle persone dentro quella palazzina? Non ho capito. Perché conosco tutti di quella palazzina, sono tutti uguali, uguali, identici e precisi. Cioè, tu dici che di fronte alle violenze, quando non riguardano la propria famiglia, stanno tutti zitti. Esattamente. Mm. Vabbè, quindi Francesco, che questo può essere, questo adesso. No, è inutile che vanno in televisione a gridare 420 che adesso i loro coinquilini sono questo e sono quello, perché loro sono uguali. Quindi, ma che siamo, di che parliamo? Quella è una palazzina, lo sai che per entrare la sera dopo mezzanotte devi cantare il tuo nome? Perché se non vieni riconosciuto in quella palazzina, rischi anche di prendere un vaso in testa. No, ma ci credo, assolutamente. Beh, che lì sono lo Stato posti, non ci sia, sono posti fuori dal mondo dove lo Stato, dove le leggi dello Stato non esistono. Per questo vanno presi, circondati, controllati e chiusi, mandati via tutti. Va, c'è fatta tabula rasa. Non c'è speranza. Finché esistono questi posti rasa, qui, non c'è speranza. Va ripreso possesso di un pezzo di quartiere, vabbè, di città, appunto, che come non lo c'è. Fai, che vuoi fare? Gli spari? Con la legge marziale. Quando uno dice tabula rasa, che cosa intende? Intendo le leggi là, le leggi. Ma io intendo mandare lì delle camionette dell'esercito, aprire un commissariato di polizia dentro, tra quei palazzi. Sì, dimmi. Sentiamo. Sì. Ma David, tu ricordi benissimo che per entrare lì in quel parco dovevamo chiedere il permesso al capozona, ti ricordi? Certo, ma mi ricordo perfettamente, l'ho documentato in un servizio, ovvio che lo so, ma dico, non è che questo mi fa dire andiamo lì e bombardiamo quel posto, mi fa dire... No. Appunto, no, radiamo al suolo, che vuol dire? Cosa vuol dire? Non ho detto radere al suolo. Ho detto semplicemente che la legge normale lì non funziona. Scusa, Lorenzo, stai alla radio, potresti non urtare il microfono ogni 3 secondi che si sente? No, così, allora, per curiosità. Tanto che per vuol fare... dire non fare radere al suolo? Cosa vuol dire? No, per me vuol dire mandare il camionetto della polizia, aprire un commissariato dentro. Vabbè. Ma allora qual è l'altra soluzione? La soluzione è alcune leggi lì, le leggi normali non possono funzionare, perché fino adesso allora non hanno funzionato. Legge marziale lì per quel posto? In alcuni posti vanno utilizzate leggi speciali. Sì, come nel caso, come è successo per la mafia, col terrorismo, leggi specialissime. E occupazione del territorio, sai i film quelli americani? I film americani su Manhattan, eccetera eccetera, una commissariato. No, così vanno imposte leggi durissime, marziali in quei posti. Tanto è 40 anni che parliamo sempre della stessa storia. Di che parliamo? Jacopo Torino. Jacopo. Caro Cruciani, vai, dimmi. Stupisco dimmi. Davvero di come tu possa pensare che la legge carceraria non sia corretta. Chiaro che in uno stato di diritto questo non dovrebbe avvenire, però il fatto che la legge carceraria di che stai parlando? La legge così, diciamo, una legge. Esiste il regolamento penitenziario, non lo sapevo. Lo diciamo a questo qui. No, ma lui sta parlando di un'altra cosa, cioè la legge, diciamo, non scritta che c'è dentro le carceri, giusto, Jacopo? Sì, esatto, sto parlando di questa. Non lo so, io non la conosco, questa roba qui, e me ne fotto, francamente. Delle regole non scritte all'interno del carcere che prevedono di picchiare un pedofilo, magari fatto da altri criminali, fottermene. E penso che sia una follia. I pedofili devono essere messi in isolamento, condannati duramente, e in alcuni casi, secondo me, anche la punturina per farli fuori non è manco una cosa folle. Però è chiaro che dico una cosa estrema, ma a un certo punto uno che ha fatto quello che ha fatto, se viene dimostrato, gli fai una punturina, arrivederci, grazie. Quindi pena di morte, allora. Per i pedofili, diciamo, di un certo tipo. Quindi pena di morte per i pedofili. Per i pedofili di un certo tipo. Ma non c'è certo tipo un altro. Per i pedofili accertati, siccome la vita... Pena di morte, siccome la vita è inutile di queste persone, è sostanzialmente inutile, perché comunque verrebbero fatti fuori all'uscita dal carcere, non c'è recupero per queste persone qua. Meglio farli fuori. Meglio una punturina, rivederci, grazie. Quindi pena di morte per i pedofili. Non la propongo. Ma non sono contrario. È il tuo pensiero. Per la pedofilia. Pena di morte per la pedofilia. Accertata. Ma che fai una punturina? Ovvio, non è che uno in primo grado. Per i condannati in via definitiva per pedofilia, tu dici pena di morte. Io mi dico che è un'aberrazione la pena di morte in generale. No, dico la pena di morte per chi viene, condannato ovvio, per pedofilia. Perché è condannato? Per chi? Per chi non è certo. condannato? Jacopo, che dicevi? No, io vi aggiungevo solo un elemento, diciamo, di vita. Ma è meglio per loro, capisci che è meglio per loro? È meglio per loro la pena di morte. Nel Vangelo, Vangelo, l'unico peccato che non è perdonato è proprio la pedofilia, che dicono che sarebbe meglio che ti buttassi in fondo al mare con un sasso legato al piede. Ecco, quindi voglio dire, è perdonato qualsiasi tipo di peccato, non quello. Per cui io credo che sia abbastanza umano e non un qualcosa di non civile il fatto di che in un carcere le persone... No, guarda, questa roba qui della vendetta dei carcerati, spesso colpevoli di gravissimi reati nei confronti di uno che è un pedofilo, è la cosa più folle del mondo. Cioè, allora, decidiamo direttamente per la punturina, non lasciamo le persone in mezzo a un branco, ma che vuol dire? Ma è una follia. No, non è allora diamolo direttamente in pasta ai maiali, diamolo direttamente... Ho capito, ma questo... No, metterlo come quello di Sabrina, ma è di un pazzo, ma basta metterlo in carcere normale, poi voglio dire... Carcere normale in mezzo agli altri che sì lo fanno fuori in 3 secondi. Vabbè, ho capito, ma ragazzi... Allora ho ragione io, meglio la puntura di questa roba qua, no? Ma no, la puntura è sbagliata per definizione, cioè voglio dire, grazie a Dio. Scusate, allora se lo facciamo lo stesso, lasciando l'impasto, se tu dici lasciamo l'impasto in una cella insieme ad altre 3-4 persone, così se la cavano, se la sbrigano loro, beh, allora a quel punto è meglio che decidiamo noi di farlo fuori, no? Pasquale, Salerno, vai. Allora, volevo dire... Non si sente, Marco Trento, vai. Ciao Giuseppe. Dimmi. Semplicemente io farei una cosa molto semplice, non farei altro che prendere il pedofilo, lo metto in piazza, lo spoglio e strappate nel coglione, semplicemente finché crepa. Sì, vedrai, però amico uno, mio, due, Marco, io posso capire... Tua figlia? Posso capire, ma quello è un altro discorso. Posso capire. È un altro discorso. È un altro discorso. Ho capito, ma lo Stato non si può basare sui sentimenti di una vittima. Perché altrimenti è chiaro che i sentimenti di una vittima, anche per l'omicidio. Hai. Scusami, Marco, se ammazzano tua figlia, se ammazzano. Non un pedofilo, se ammazzano tuo padre, tua madre, eccetera, eccetera. Il primo sentimento che hai. Allora, calci in culo agli assassini in generale, non ai pedofili, a tutti. Cioè, gli assassini vanno condannati a morte. Anche loro. Anche loro, vabbè. Certo. Parlava della pedofilia, anche loro. Ma certo. Anche loro chi? Anche loro, tutti quelli che sono delinquenti, che sono reo confessi, e quelli che vengono beccati sul fatto. C'è prova certa. Cioè i delinquenti, in generale. Hai ammazzato qualcuno? Certo. Calci nel culo? Che vuol dire calci nel culo? È troppo poco calci allora calci nel culo? Coglioni finché crepi. Finché crepi, cioè tu dici lapidazione in piazza. Lapidazione in piazza per le persone che hanno commesso un omicidio. Cioè gli omicidi vanno uccisi. Certo. Per me sì. Cioè chi ammazza deve morire. E tu chi cazzo sei per togliere la vita agli altri? Allora sì, ma ho capito, esistono pure le pene. Non si può ragionare, ma esistono che non è... le pene, l'ergastolo, cose di questo tipo. Ma perché l'ergastolo? Perché lo devo mantenere io sto qua? Ma dove cazzo sei scritto, scusa. Vabbè. Tu lavori una vita, cioè, paghi no, tasse, ma ho capito, ma ho la mamma che perde 400 euro di pensione al mese e io mantengo uno in galera perché ha ammazzato un altro. Ma vaffanculo, ma scusa, ma dove cazzo sono scritto? Che poi voglio vedere gli ergastoli quanto durano. No, quello è un altro discorso. Quello è un altro discorso. Ciao, ciao. Appena aperta, sicura, in casi gravi, ammazzati. Ciao. Eccoci qui, ogni lunedì, Salvini, come stai? Dove andiamo? Bene ragazzi, Bruxelles, solito. Roma, poi settimana Bolzano, Milano, Varese, Bologna. Vabbè, campagna elettorale insomma, dai. Aspetta un secondo sempre. Che c'è qui. Pronto, Parezzo. Ciao Guido. Chi sì, è? Sono con Salvini, no, sono con Bertolaso al telefono, aspetta un attimo. Ciao Guido. Ah, devo Bene come allenatore del Milan ormai, Bertolaso. Aspetta, Guido, fai l'allenatore del Milan, dice Salvini. Che vada proverò a dirglielo, va bene, ok, grazie. Sì, ciao. Sì. Ha detto che devi andare a quel paese. No, ha detto insomma, che prenderà in considerazione la proposta. Ma è sparito dalla circolazione, Bertolaso? Sì, sparito completamente dalla circolazione. Scusa, era mica un genio fino alla settimana scorsa. Per Berlusconi? Per Berlusconi? Balneabile, avrebbe sconfitto i topi. No, Berlusconi ha detto qualche tempo fa che era, gli altri candidati facevano ridere a confronto di Bertolaso. Ma Berlusconi, secondo te, sei un po' rincoglionito? Adesso dimmi la verità, sei un po' rincoglionito? È mal consigliato e mal da circondato. Chi? Da chi? Per esempio la Pascale, secondo te, l'ha consigliato? Ma non fatemi litigare, so che non le sto simpatico, che mi ha dato del troglodita. Del fascista, del razzista. In ginocchio dei meridionali, Così sì, ha sì, detto. Ma i ragazzi che devono scappare dal sud perché non c'è lavoro mi inginocchio, la Pascale no. Perché dici che ha avuto tutto facile perché nella vita. Un po' meglio rispetto ad altri. Cioè dai. Nella vita gli ha detto bene, gli ha detto bene. Beh, sì, è molto più fortunata rispetto a tanti altri ragazzi sì, che però, dal sud secondo te, devono scappare. Secondo te è normale che la compagna di uno che è il tuo alleato ti dia del troglodita? No, non è normale evidentemente. Ma ho capito, però, ma... devo dirti che ci perdo il sonno, ti dico il falso, me ne faccio una ragione. Non sto simpatico alla Pascale. Amen. Tu hai detto la settimana scorsa che Berlusconi è sotto scacco di Renzi. Sicuramente ma... Renzi con la legge sul conflitto di interessi, la legge sui diritti televisivi, sullo sport in TV, sicuramente può decidere nel bene e nel male le sorti di questo. Dunque tiene sotto scacco, non è un caso che i vertici di Mediaset siano molto filo governativi. Renzi ormai occupa ogni buco di potere che trova. Se tu o David aveste un'azienda o io avessi un'azienda da miliardi di euro che per una legge può guadagnare o perdere milioni di euro, ovviamente cioè, ci conviene cioè gli conviene stare un po' a cuccia. Ma dici? Qualcuno l'ha detto, scusa, da Fininvest e da Mediaset sono in parecchi a dire bisogna dialogare col governo Renzi, capisco, è un ragionamento aziendale assolutamente comprensibile. Se sai che Cruciani può approvare una legge che ti penalizza, tu spari contro Cruciani, no? Evidentemente gli dici che è bravo, bello, simpatico. Senti, ma il disastro del Milan, alla fine non è meglio venderlo? Molti tifosi lo chiedono, eh? Sì. Cioè, Berlusconi deve vendere agli arabi, la gratitudine e la riconoscenza per quello che calcisticamente mi ha fatto vedere, cioè venda il Milan Berlusconi in questi 30 anni però negli ultimi anni è veramente un'agonia, per cui vende il Milan, stato, diciamo. Vendiamo a un marziano, certo, se ci fosse un grande imprenditore italiano sarei molto più contento, ma pur di vincere qualcosa anche con i cinesi, bene anche i cinesi, anche i cinesi sì va bene, cinesi, thailandesi, esquimesi, finlandesi, non puoi prendertela con l'allenatore, con la squadra. Parlerà arabo il Milan, parlerà arabo, voglio vedere come lo tifo. Ulla Milan, ulla Milan. Diciamo che se vendesse a un russo sarei più contento. Ecco, vedi. Tu potresti reclutare qualcuno in Russia, Putin, scusa. Io ne conosco a voglia di miliardari russi. Appunto. Non stanno ad aspettare Salvini. Si parla molto di questa storia del presunto pedofilo eccetera a Napoli, no? Questa aggressione che c'è stata in carcere, che tu mi sembra di capire che non condanni, cioè non è che ti fa impressione. Devo dirti che mi spiace se hanno preso a calci uno che è accusato di avere stuprato e ammazzato una bambina. Ma in carcere però lo Stato deve garantire. Zero. No, ti dispiace. Ma lo Stato deve. Ma viste le carceri però, italiane, scusa. Visto che spesso e volentieri. Aspetta. Io ambirei ad una normativa che preveda per i pedofili e gli stupratori la castrazione chimica come in altri paesi civili del mondo. Poi non son per la giustizia sommaria. Se Cruciani e Parenzo mi chiedono ti spiace che qualcuno abbia preso a pugni quello che potrebbe aver stuprato e ammazzato una bimba, no, non mi spiace per niente. Lo Stato deve garantire, tu dovresti essere il primo ad aver paura se avvengono episodi di questo tipo. Ma guarda, lo Stato perché... dovrebbe garantire l'incolumità innanzitutto di quelli che sono fuori dal carcere. Lasciarelli ti ha dato una bella bastonata l'altro giorno. Cioè, chi l'ha visto? Ma guarda, io sono un telespettatore di Chi l'ha visto da quando ero piccolo. I miei compagni del liceo mi sfottevano perché mi ha sempre appassionato a Chi l'ha visto, quarto grado, quelle trasmissioni. Però io ho visto una puntata in cui ha fatto un pippone di un'ora contro i carabinieri. Ma non era contro i carabinieri, hanno mostrato delle immagini, era una storia. Eccessivo. No, ho capito, ma di cercare gli scomparsi, non di accusare chi indossa una divisa. Ma non è che hanno attaccato i carabinieri, dai, ma ti pare che la Sciarelli che attacca i carabinieri a una trasmissione che è basata proprio sulla collaborazione alle forze dell'ordine, cioè attaccano i carabinieri. L'ho visto io e l'hanno visto tanti altri. Non ci serve una trasmissione come Chi l'ha visto che si aggiunga agli antipolizia e agli anticarabinieri. Si occupi di altro. Ciao, presto, ciao. Saluti. Allora, uno mi scrive darlo in pasto ai maiali, a proposito di quello che diceva pochi istanti fa anche Salvini, darlo in pasto ai maiali, oppure come in America, lo sapete com'è morto il mostro di Milwaukee? Io francamente non me lo ricordo, prima l'ha evocato un ascoltatore, no? Messo in cella insieme a un altro. Viene il sospetto che sia vero in realtà, la morte del mostro di Milwaukee, non me la ricordo. Può anche essere. Allora, la Cassazione ha deciso che un signore che ha rubato per fame wurstel e formaggio all'interno di un supermercato anni fa... ha deciso che non è reato, cioè in casi particolari di indigenza, in questo caso era un homeless straniero, un giovane straniero senza fissa dimora, adesso sicuramente diranno gli extracomunitari, eccetera, eccetera. Se rubi per fame non è reato, cioè giustificato chi ruba per imprescindibile esigenza alimentare. Ora io dico una cosa, ragazzi, questo è veramente un paese assurdo. Cioè adesso c'è differenza tra chi ruba per fame e chi ruba normalmente. Cioè, abbiamo anche queste differenze. Tu vai in un supermercato, rubi e non sei colpevole perché dici io ho bisogno per non mangiare. Non credo che dai, su, se lo fai tu, io o anche Donato da Varese. Cioè questo clochard che cosa aveva fatto? Aveva pagato una confezione di grissini, non i wurstel, le due porzioni di formaggio che si era messa in tasca, capito? Poi io dico, non dico che devi dargli il carcere a vita. Insomma, dai, forza. Addirittura dire che non è reato. Se vai lì, te prendi i grissini, invece ti porti via, paghi i grissini e ti porti via il formaggio e i booster. Dai. In Italia può succedere di tutto con la Cassazione. Di tutto, di tutto. Enzo da Roma, vai. Ciao ragazzi. Dunque, dimmi. Io ho telefonato per chiedere a Lecchino quando è che finirà questa voglia dell'alta finanza americana. Per chiedere a chi, scusa? Con chi vuol per parlare chiedere? Intanto? Di tenerci, di mandarci, di metterci in condizioni di avere tutti questi cazzo di clandestini. Lo chiedo a Lecchino. Cioè, ma con Lecchino, chi vuol parlare? Con Lecchino, lui? Dice. E chi è Lecchino? Sì, chi sì. Sarebbe? Suo fratello non dici, è qua, Parenzo? Neanche la sua famiglia non è qui, mi dispiace. Parenzo, per favore, tu in quanto ma non mi pare ebreo, che non c'è né suo figlio né suo fratello. In quanto ebreo è legato all'alta finanza massonica di Wall Street. Certo, come cazzate. Tutti gli ebrei italiani. Tutti legati all'alta finanza. Ma poi uno dice non denunciarli per diffamazione. Vabbè, questo che c'entra, denunciare. No, dai. Ma scusami però, perché è legittimo che si alimenti antisemitismo vabbè, dicendo ma questo che... è un cretino, dai, su. Ma perché uno deve stare zitto però? Ma no, ma infatti bisogna rispondere, ma dicendo che è un cretino, non tribunale. Uno non può neanche interagire, cosa gli dice uno? Aspetta, adesso gli dico io, aspetta. Cruciani e Parenzo, amunizzra, giornalista, sì. La Zanzara. Una trasmissione è diventata ormai patetica. Quel nano di Parenzo che non chiude mai quella fogna di bocca, vergognatevi! Allora ragazzi, dalla trasmissione di venerdì viene fuori la storia incredibile. So che si sono mobilitate tantissime persone per cercare lavoro ad Alessandro. Una specie di zanzara per il sociale, caro Parenzo. Ma perché fai questo rumore al microfono? Sì, ma mi fa impazzire, no, fai la radio, cazzo! C'è un rumore di fondo! Se sbagli perché non sto facendo ma nessun rumore. Ma lo sentono tutti qua, il sbatti sul microfono, è cazzo! Fermo. Saranno gli strumenti che ho, come vedi, sul tavolo. Vai a cagare, dai, Alessandro ho delle da cose Torino, sul dai. Tavolo e quindi quello sì. Ma il non microfono c'è, ma non è una casa tua. Dalla webcam. Vabbè, webcam niente, tanto non c'è niente da fare. Alessandro da Torino, vai. Chi c'è? Alessandro, vai, dimmi. Io volevo dire, io sono d'accordo con te sulla linea dei Rom. Sì, sulla linea. Sono d'accordissimo con te. Allora? Io sono disoccupato. Sì. E sono da 8 anni senza luce, senza gas. Sì. Senza niente. Sì. E mi girano i coglioni sì. Perché scusa il termine, come fai a essere senza luce, senza gas e sta col telefonino? Scusa Alessandro, spiegami. Ma perché è mancata mia madre e io non potevo pagare perché avevo perso il lavoro nel 2007 e dal 2007 che sono senza luce, senza gas, senza niente. Scusa, come fai a essere, ripeto, per carità, senza luce, senza gas, senza niente, però stai col telefonino acceso, no? Uno teoricamente non sa manco come accenderlo. Lo vado a caricare. Vabbè, ma è una domanda, vai a caricare dove? Alla Caritas, tra amici. Io sono andato a fare domande dappertutto. Niente. Ho girato tutte le agenzie. Ho girato il comune. Ma come dove dormi? Una casa ce l'ho, grazie a Dio. Ma come fai senza gas e senza luce? Come fai a pulirla sta casa? La pulisco. Senza gas e senza luce? Sì. E l'acqua? È fredda. L'acqua fredda, come fai a lavarti? Si lava l'acqua, l'acqua fredda, la riscaldi. Come la riscaldi? Col gas. È una bombola, la scaldo. Che prendi? Prendi il gas da un'altra parte allora? No, no. Ah, il cucinino. Ho preso una bombola. Ah, un cucinino. Ho cambiato gli augelli e... E dunque? La scaldo. Ma perché non vai a fare un lavoro qualsiasi? Ma io sto cercando in tutti i modi. Però ho 45 anni e non sono più in grado di fare certi lavori. E perché? Che c'hai a 45? Perché comunque ho diverse patologie. Che c'hai? Pure queste? Che c'hai? E c'ho i reni che non funzionano. I reni che non funzionano? C'ho l'ipertensione. L'ipertensione? C'ho poi? Il cuore che... Il cuore? Purtroppo funziona male. Il cuore che funziona male. Allora, i reni che non funzionano, l'ipertensione, il cuore che funziona male, amico mio, non c'hai una lira, anch'io che te devo fare? Non lo so, cioè, ricoverati, no? In ospedale, almeno così mangi. Alessandro, hai la patente per fare l'autista? No, purtroppo no. Neanche ma che sai fare? Scusa, spiega. Io so portare il carrello perché l'ho portato per 10 anni. Quale carrello? Il muletto. Beh, poi che c'ha, poi che sai fare, Alessandro? So fare di tutto. Tipo, che sai fare? Ma so fare selezione in linea. Selezione so in linea. So fare... Poi? Che sai fare? Riordino riordino di che? Riordino di tutti gli articoli. Riordino degli articoli. A seconda di come mi arriva il comando. Ah, gli articoli, sì, sì. Magazziniere, lo sai fare il magazziniere, Alessandro? Sì. Però, amico mio, ci vuole un po' più di forza in questi casi, bravo, perché se tu sei depresso così, è inutile pure che noi facciamo gli appelli, eccetera, non te cerca nessuno, perché dice non è che possiamo pigliare uno che già... Sì, ma io non posso neanche stare senza luce da 8 anni, nessuno mi dà una mano. Amico mio, abbiamo fatto un appello adesso al comune, e dici un attimo, ripetici un attimo il nome del comune che me lo sono scordato, qual è? Comune di Volpiano. Volpiano. Alessandro? Sì. Non si butti giù, adesso proviamo a vedere col comune, dai. Volpiano, Volpiano. Qualcuno del comune di Volpiano ci chiami. Vabbè, a un certo punto è intervenuta una tale Veronica. Una tale Veronica che dice: Alessandro in realtà è uno che si fa, è uno super fatto. Alessandro di nuovo. E allora, io fino al 2006 ero tossico dipendente è mancata mia madre nel 2007 e io ho trovato un amore. Sì, ma tu non ho capito, fino al 2006 ero tossico dipendente di cosa? Di eroina. Eroina. Poi? Tutte e due, eroina, cocaina. Tutto, anche. Qualsiasi cosa. Vabbè. Poi, tutto. Poi nel 2007, hai trovato l'amore, vabbè, hai smesso con l'eroina. Ho trovato l'amore. Da lì ho mollato. E adesso? Non tocco niente. La storia, Parenzo, se non ti ricordi, no, mi ricordo perfettamente, ha avuto un'evoluzione anche drammatica, perché a un certo punto interviene un suo amico di comunità di recupero per tossicodipendenti, che dice che in realtà lui fa avanti e indietro con questa comunità di recupero, cioè in realtà è ancora sì, dipendente, un po' dipendente, così dice quello lì. Comunque, ragazzi, abbiamo ricevuto tantissime telefonate, mail di persone che vogliono aiutare questo signore, questo Alessandro, a trovare un lavoro, a prescindere dal fatto che è un tossico, che cazzo ce ne frega a noi. Se è in grado di lavorare, è in grado di lavorare, punto e basta. Giuseppe Roma, vai. Sì, ciao. Pronto? Dimmi. Ciao. Allora, guarda, io direi una cosa, volevo intervenire per quanto riguarda il discorso dei pedofili, e penso questo, che queste merde devono avere nella loro malattia, nel loro essere mostri, un attimo di lucidità per poter dire: cazzo, sono un mostro, mi autodenuncio, vado alla polizia, vado da qualcuno e mi faccio aiutare. E per queste persone ho capito, non è così semplice. Se uno è malato, se uno ha un problema molto grave come questo, Cruciani, non è semplice perché non c'è la legge è molto, dai, non lascia perdere la legge, non è che è facile consegnarsi, cioè sono persone, non è facile, cioè se tu sei un padre di famiglia e sei pedofilo, nell'attimo in cui riconosci questo tuo problema, Giuseppe, se fosse così semplice, le cose si risolverebbero prima, diciamo, prima di commettere altre nefandezze, diciamo, no? Non dico che è semplice, è che a fronte di quello che realmente poi vanno a scontare, quanti ce ne stanno che toccano la ragazzina e dopo due anni stanno fuori? No, non pochi. Che stanno fuori, pochi. È successo il caso di pedofilia all'interno della chiesa che purtroppo non è stata denunciata. Va bene, Enzo da Roma, parlavamo con Enzo da Roma in realtà, che voleva rimproverare a Parenzo, che cos'è che voleva rimproverare Enzo? Ecco, il fatto di farci sapere fino a quanto durerà questa situazione. Quale situazione? Non abbiamo capito bene, Enzo. I governi illegittimi. Governi illegittimi, poi? Fatti da chi? Dall'alta finanza, sì, americana, inglese, tedesca, perché sì, noi non volevamo, Berlusconi non voleva più avere l'euro, voleva uscire dall'euro, non voleva far bombardare giustamente la Libia di Gheddafi. Cioè dunque il complotto com'è? L'alta finanza giudaico-massonica che ha praticamente spodestato Berlusconi, amico peraltro di Israele, di Gheddafi, amico di tutti. Ora le primavere arabe. Che c'entra Parenzo? Della democrazia. Vabbè, ma che c'entra Parenzo in questo, Enzo? Parenzo, essendo una persona intelligente in quanto ebreo, perché gli ebrei sono intelligenti. Ecco, lui se potesse chiedere ai suoi amichetti. Sì. Aspetti un attimo, pronto? Ci siamo rotti i coglioni. Sì, no, pronto, sono un attimo al telefono con il capo del Mossad. Un secondo, sì, possiamo risolvere un problema? Ma è molto semplice. Un poveretto si chiama Enzo da Roma. Sì. E ci pensate voi allora? Grazie, perfetto. Ho parlato col capo del Mossad, a posto. No, ma dovevi chiamare invece l'alta finanza ebraica per dire di ripristinare la legalità in Europa e in Italia. Scusa. Estirpiamo il problema alla radice. Ma Enzo da Roma è un piccolo problema. Dovevi chiamare il capo della lobby ebraica parte mondiale. Da piccolo problema per risolvere grande problema. Una volta bombardato Enzo da Roma, risolto il problema anche di Gaza Strip, di Hamas. Tutto parte da qua, da Enzo da Roma. Noi prende, bombarda un attimo con piccola ingerenza umanitaria, piccolo Enzo, sorvolo. Enzo? E arrivederci. Enzo da Roma. Addio, grazie. Addio. Allora, però non sta bene questo qui, Stai bene, Enzo? Non sto bene. Oggettivamente non sta bene. Oggettivamente questo non lo dico. Non voglio farla arrabbiare. Davvero lei non sta bene, però glielo dico col cuore, guardi. Vabbè, comunque ti ringrazio. Prego, anche Enzo, se prego. Non ci hai dato questa informazione. Quale informazione? Non si sa. Cioè, quando finirà tutto questo? Quando finirà tutto questo? Ma non è possibile continuare così. Parenzo, chiama sta lobby ebraica, no? Chiama sti cazzo dei capi della lobby ebraica. Chiama in America, parla con qualcuno. Ma ti rendi conto cosa? Che lo fai felice? Parla con qualcuno. Fai felice il pazzo, se lo assecondi, fai felice il pazzo. Ma non hai capito, chiamali sul serio. Fai sta telefonata, pronto, lobby ebraica americana, quando è che finisci di rompere io? E che ci vuole? Su, dai. È di seconda battuta, e infatti in Inghilterra non è mai entrata in Europa. Chi? Ciao Enzo, ciao. Ma chi è entrata mai in Europa? La Zanzara, sono le nostre 2 ore e mezzo di libertà quotidiane. La Zanzara. Aspetta. Aspetta. Pronto? Principe? Sì? Sono Cruciani, come stai? Oh, grandissimo principe, grandissimo. Grandissimo. Che bello sentirti. Beh, che bello soprattutto leggere quello che avresti scritto. Perché dici che non hai più scritto sta cosa che ti hanno creato il coso? Ma perché veramente non l'ho scritta io? Ma non ci credo, dai. E chi l'ha scritto, Badoglio? Chi l'ha scritto, scusa? No, guarda, guarda, adesso ha fatto abbastanza polemica così tutta questa cosa. Appunto, ma scusa, ma com'è possibile che ti hanno hackerato cose? Chi è stato? Hai fatto una denuncia? Ho fatto la denuncia, come a Monte Carlo, dove richiedo, ho fatto la denuncia e hanno già trovato l'IP della persona. Ah, hanno già trovato la persona colpevole di quel... Hanno già trovato l'IP, adesso devono indagare sulla cosa. Cioè, perché qualcuno, Alessandro Gassman, ha detto addirittura che tu sei un traditore come i tuoi... Sì, allora, Alessandro Gassman è molto simpatico, avrei voluto riscrivergli, sì. Ma personalmente, diciamo, un tweet privato, perché io non sono per lavare i panni sporchi in pubblico, ma mi ha bloccato. Questo è coraggio? Cioè, ti ha bloccato il signor Gassman? Mi ha bloccato, senza neanche conoscerlo, ho provato di vedere quel che aveva scritto e vedo... Alessandro Gassman ti ha bloccato, non puoi leggere i suoi tweet né rispondere. Cioè, ha detto che sei un vigliacco per tradizione di famiglia. Poi ha detto lancia il sasso e poi nasconde la mano come il nonno sulle leggi razziali. Io lancio il sasso e nascondo la mano, lui scrive delle cose su di me e mi blocca dopo, non lo so. Ma guarda, tanto non è Gassman, non è quello il problema o no, anzi, massimo rispetto, grande attore come il padre e non ho niente da dire. Beh, insomma, ti dà del traditore. Ma guarda, non è l'unico, leggendo anche il tweet degli altri. No, lui, quello è il nonno, non lui. Si poteva fare forse un passo indietro anche per mettere le cose a posto. C'è stata una grande polemica su una visita mia a Noto. Sì, vabbè, questo adesso però chi se ne... ma ti spiego il perché. E stranamente, sigle politiche e anche l'ANPI hanno detto, ma Emanuele si deve scusare per l'Unità d'Italia, si deve scusare per la Seconda Guerra Mondiale, per le leggi razziali. Anche sapendo benissimo che il primo atto che ho fatto tornando in Italia sì. era di condannare fermamente le leggi razziali. Però scusami Emanuele, noi ci conosciamo... Aspetta un attimo. Arrivo subito da te. Siccome abbiamo... Chiamami Emanuele perché farà anche polemica sta cosa. No, aspetta un attimo, torno subito da te. Perché ho il traffico, perché noi abbiamo ogni tanto le interruzioni. Mandi il traffico. No, ma principe. io conosco. È la casa io Savoia, conosco il Emanuele traffico. Principe da un sacco di tempo. Ho un bel rapporto con lui. Ho il diritto di criticare chiunque, anche le persone che conosco. Voglio capire bene questa storia della cosa hackerata, del profilo Twitter hackerato da qualcuno. Lui dice che ha fatto la denuncia, hanno già trovato chi ha scritto quelle cose al posto suo. Io non lo so, la mia prima impressione era di non credere al fatto che qualcuno potesse aver hackerato il tuo profilo Twitter. Però devo dare il traffico e torno subito da te. Fermo lì, Principe, un attimo solo. Crucia, hai rotto il cazzo con la zanzara. Noi vogliamo sentire la pubblicità. La pubblicità e il traffico. La zanzara. Allora... Adesso per colpa della zanzara ascolto solo Cruciani e Parenz. Parenz e Cruciani. Che schifo. Allora ragazzi, siamo in collegamento con Emanuele Filiberto di Savoia che ci chiarisce tutto su quello che è successo. Allora, per ricapitolare, esce un tweet dal profilo Twitter ufficiale di Emanuele Filiberto. No. Aspetta, in cui c'è scritto: i parassiti partigiani con le loro 179 associazioni costano al contribuente 3 milioni di euro. Ovviamente si scatena l'inferno. Lui dice: scusatemi, ma mi hanno hackerato il profilo Twitter. Fa, da quello che ci ha detto adesso, una denuncia e pare che abbiano scoperto, sempre da quello che ci dice lui, abbiano scoperto l'indirizzo IP, giusto? L'indirizzo IP di chi sarebbe entrato dentro il tuo profilo. Effettivamente, caro Principe, la frase è abbastanza articolata, cioè sembrava veramente che potesse essere un tuo pensiero quello delle associazioni. Ma no, perché non è, ma guarda, allora a me dispiace tanto veramente quello che è successo, perché comunque ho un grande rispetto per i partigiani, per chi ha dato la vita per liberare questo paese, e questo nessuno me lo può togliere, come sono stato il primo di Casa Savoia a condannare le leggi razziali e quello che era successo durante e dopo la guerra. Ma qui si sta parlando però dei partigiani e delle associazioni. Ma secondo te che cosa è successo? No, perché dopo. Allora, io dico cosa è successo. Per quella visita a Noto dove l'ANPI aveva detto che mi dovevo scusare sull'unità d'Italia, poi sulle leggi razziali, eccetera, eccetera. Sulle leggi razziali, sulla guerra, su tutto. Così, leggendo sta cosa, dovevo anche scusarmi sul Big Bang e anche altre cose. Cruciani, e non il Gang Bang, il Big Bang. Il Big Bang, sì, ho capito benissimo. No, scusa, Principe, io guarda, sulla visita di Noto, aspetta, due secondi. Poi, su questo hanno ritwittato un articolo, non sono parole, anche se si va a vedere questo retweet, non sono parole mie, è un retweet di un articolo scritto da qualcuno sulle associazioni... sull'ANPI e le associazioni dei partigiani. Fatto questo, io ero all'estero, ho visto quello che è successo, ho posto denuncia dov'ero e in più l'ho tolto perché non... Ma è, hanno scoperto chi è stato o no? Hanno l'IP del computer che l'ha fatto, adesso devono andare un po' più in là. Dobbiamo essere chiari, dunque tu giuri e spergiuri che quella frase lì non l'hai scritta tu. Ma basta anche vedere il tweet, anche se fossi stato io, quello che... Ah, dice, era scritto troppo bene in italiano. È un articolo di... Sì, di un sito. Cosa, è un retweet, dunque non... Vabbè, io gli credo, se è così io gli credo. Allora, guarda, io devo... Ma guarda, è lì. Dopo, ma io gli credo, se hanno già individuato l'IP, benissimo, io gli credo per forza. Comunque secondo me non era manco sbagliata la cosa, cioè secondo me è assurdo che le associazioni dei partigiani abbiano i soldi. Questo è un altro discorso. Ma tu che pensi, che è giusto che abbiano i soldi? Io trovo che delle associazioni devono esistere per comunque tramandare la memoria di... Ed è giusto che abbiano i soldi? È giusto che abbiano i soldi dallo Stato? È giusto anche che abbiano i soldi per sopravvivere. Io no. Però vabbè. Okay, però si parla di memoria storica ed è importante. Quello che ho ricevuto dopo come valanga... Ma quello è normale, lo sai. Ma ci sono state delle cose molto, molto ingiuriose di persone che, voglio dire... Vabbè, ma sai, Principe, tu sei... Lo sai che tu già sei una persona che provoca invidia, eccetera, eccetera. Però, Parenzo, tu devi avere il coraggio di dire davanti a Emanuele Filiberto quello che pensi della monarchia. Perché prima, in apertura della trasmissione, lui lo sa perfettamente. Dando per scontato, certamente, perché avevo letto la notizia. Cioè, anch'io. Non credevi alla smentita iniziale? Inizialmente no. Ora che mi ha spiegato nel dettaglio come sono andate le cose, che hanno trovato l'IP, io sono il primo a dire ci credo perfettamente alla sua versione. Dopodiché, questo è il punto di partenza. Se dovessi... Vabbè, adesso non ci mettiamo a discutere il ruolo della monarchia e chi se ne frega. No, cioè, non è... ma io credo... È dal 46 che si discute sulla monarchia o no. È meglio... No, ma va bene, ma io entro nel merito delle cose, non del fatto in sé. Entro nel merito del fatto. Lui ha trovato chi ha le prove per poter dire chi è stato? Sì, pare di sì. Allora non è stato Filiberto, arrivederci, grazie. Ok, però Alessandro Gassman, che è uno che dice io non ci credo, è un vigliacco perché adesso lancia il sasso, cioè non crede assolutamente a questa smentita tua, dice che sei un vigliacco per tradizione di famiglia, cioè i tuoi sono dei vigliacchi, io mi incazzerei. Io non mi incazzo perché ognuno la pensa come vuole. Io ho provato di mandargli un messaggio diretto e ho scoperto, perché non ero mai andato sul suo account, che mi aveva bloccato. Dunque il coraggio, da che pulpito viene la predica, voglio dire, in questo caso. Sì, tu dici lì non c'è nessun coraggio, vabbè, ma là bloccano le persone, pure Parenzo blocca un sacco di gente. Vabbè, certo, solo sì, perché è un mio diritto. Ti rendi conto, con tutti gli insulti che ho ricevuto, io quanto ne dovrei bloccare? Ma tu, secondo me, siccome non c'è il diritto all'insulto, se uno ti sta sulle balle, bloccalo. Vabbè, ma lui che ha fatto? Non è che gli ha detto qualcosa Alessandro Gassman? No, ho capito, ma c'è il diritto a bloccare una persona, no? Perché uno deve essere... di Twitter... Uno può... Per fortuna nella nostra vita possiamo scegliere con chi parlare. Però se tu dici a qualcuno che è un tradimento... Allora in questo caso non ti metti su Twitter. Twitter è qualcosa di aperto. Ma che c'entra? Dove le persone possono... Ma è che c'è l'insulto libero però. Io non credo che ci sia il diritto all'insulto libero. Però scusami un attimo, se uno come Alessandro Gassman dice che quello è un vigliacco, che quello lancia il sasso e poi lo blocca, ma che cazzo vuol dire? Scusa, cioè, mi sembra una cosa assurda. Questo è anche vero, ma però io ne approfitto di essere con voi veramente per dire che mi dispiace molto, non per quelli che mi hanno scritto, ma per i partigiani stessi, quelli che che sopravvivono, o le famiglie. Per me, per me era bella questa polemica, invece fosse stata vera sarebbe stata meravigliosa questa polemica. No, ma te giuro, sarebbe stata bellissima. Poi, voglio dire, non sono io che devo decidere sulle associazioni se devono ricevere o no contributi. Vabbè. Io trovo che sono belle le associazioni perché comunque tramandano certi valori. Va in bene. Questo caso tramanda un valore di libertà e di chi veramente ha combattuto per la libertà. Va bene, ciao. Bravo, questo, bravo Filiberto. Tessera ad onorem dell'Ampi. No, tessera lui ha mandato onorem. A fare in culo la monarchia all'inizio della trasmissione. Adesso ti ha sentito. Ma io valuto le idee, le persone. Però scusami, non è che sono a prescindere una macchinetta, io un cazzo. Io sento cosa dice una persona, se mi convince dico bene, bravo. Allora, non è che sono ideologizzato. Finiamo mi sembra che abbia detto delle cose ragionevoli, addirittura dice che sono delle associazioni benemerite che tramandano la memoria, ma perché lo devo mandare a quel paese? No, sentirò allora, cosa allora dice una persona prima di mandarla a quel paese. Allora finisci questo dicendo avanti Savoia. Avanti Savoia, dillo pure te, avanti Savoia. Ma avanti Savoia non capisco più cosa dirlo. Dillo anche te, Emanuele, avanti Savoia. Avanti Savoia. Avanti Cruciani, ciao. Fantastici. Ciao, ciao, ciao principe. E un bacio a tutti e veramente mi dispiace di quello viva che... Lampi, viva i partigiani, dillo, viva detto, i partigiani. Viva i partigiani d'Italia, viva, anzi, cantami la canzone, com'è una canzone dei partigiani, Parenzo? Cantami... Bella ciao? No, quella che sei tu, aspetta, no, cantami bella ciao, bravo, sì, bella ciao, cantami bella... Dai. Oh partigiano, Giano. Portami... Poi? Com'è, Parenzo, com'è? Parenzo. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e ciao a tutti. Vai, oh partigiano! Mattina, no, inizia così, una mattina, aspetta. Mi sono svegliato, vai, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ma non la sai mattina, allora? Mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Ma qual era quella contro la monarchia? Aperta parentesi, quella contro i la monarchia. Chiusa parentesi. Qual era quella contro la monarchia che hai segnalato prima, Davide? No, com'è quella che è una canzone famosissima, si chiama Badoglieide, ma è una canzone veramente famosa. Ma come fa? Come fa? Come fa? Oh. Ma come fa? È una pagina di storia. Ma come fa? Badoglio, Badoglio, Badoglio. Ma non la conoscete veramente? Ma vai, dillo. Come fa? È una canzone di Fausto Amodei. Ma dillo, come fa? Ma dilla, non è che la conosco a memoria. Se voi la posso far sentire, guarda. Saremo insieme. Ve la faccio sentire qua. Comunque è bellissimo, il principe che canta Bella Ciao è bellissimo. Oh, Bella Ciao. Com'è sta canzone? Dimmi, faccio sentire. Aspetta. Se parte. Vai. Oh, ma non avete proprio un cazzo da fare. Aspetta, no, nulla, niente, zero. Aspetta. Ore di radio perse. Ore di vita perse. Aspetta un attimo. Fai partire sta canzone, David. È a Badoglieide, aspetta un attimo. E che cazzo, non funziona niente. Eccolo, qua. Eccolo. No, ma lui adesso parte. Non ha l'età di guardare. Aspetta, principe, aspetta. Eccolo qua, aspetta, va. Vai. Si incastra tutto qua in me. Mamma mia, che disastro, dai. Ragazzi belli, qui è partito o no sta canzone? Sì, ma su YouTube vado. Ma vai. Ma che è sta cosa? Ma che è? Famosissima, non sai niente. Ma è una cosa assurda. Vabbè, principe, è proprio ignorante, la Badoglieide. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Cioè, bello finire così. No, ma a te finisco. Oh bello ciao, bello ciao, bello ciao, ciao, ciao. Ciao, Badoglieide, ciao, Badoglieide, famosissimo. Ciao, carto partigiano ciao, Fausto ciao, ragazzi, ciao. Amodei. Fermo. Parenzo, querelati il cervello, va. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. La Zanzara. Ma poi volevo dire, ma che male c'è se uno va a mignotte? È un mestiere più antico del mondo. Ma... che male c'è? Un male sai qual è? Se vai a Froci! Crociani, sono in ufficio, sono appena andato in bagno. Mi sono accorto di essermi pisciato sotto, no, ma ho qualche goccia di pipì che è uscito. Mi sono macchiato le mutande e anche un po' i pantaloni. Solo che ho paura che qualcuno mi veda e sono un po' preoccupato. Ciao. And would you cry if I told you that lie? And would you say goodbye? Allora, c'è un consigliere comunale a Cantù, una nostra vecchia conoscenza, caro Parenzo, un signore che si chiama Giorgio Masocco, ex Lega, il quale durante un consiglio comunale sempre a Cantù ha detto che i partigiani ne hanno combinate di cotte e di crude. Non so perché si parla di questo argomento da giorni, ogni tanto spuntano di fuori delle cose che riguardano fascisti eccetera eccetera, comunque e che in realtà il Duce ha fatto grandissime cose per l'Italia. Pieno di vogliamo fare una telefonatina al signor Giorgio Masocco, sì o no? Chiamiamo, che dici? Chiamiamo dai, su, chiamiamo, bella battaglia, dai. Pronto? Masocco? Sì. Sono Cruciani, ma che cazzo hai combinato? Ma sono dei coglioni. Ma chi questi sono dei coglioni? Consiglio comunale, ma te lo dico in modo sereno, perché qui oramai ci sono i dogmi, no? Sì. A un certo momento ho detto, voi vi dovete ricordare che Mussolini vi ha lasciato qui, se oggi stiamo ancora in piedi, lo dobbiamo a Mussolini, e allora sti qua, apologia di fascismo. Capito, non è che puoi dire, non è che puoi dire. Ha finito? Ha finito? Non è che puoi dire che noi siamo in piedi, grazie a Mussolini, dai. Ma li ho presi per il culo, no? Mi provocano, lo sai, Cruciani, mi hai conosciuto, no? Ma adesso che fai? Ti tiri indietro? Una, dici no, questa non co- mi tiro indietro, mi conosce, non mi metto in appunto. Dunque, secondo te non ho capito, il paese sta in piedi grazie a Duce? Ma secondo me le opere che ha fatto questo signore qua per un certo periodo ne ha fatte di opere, ha fatto tutte le colonie, ha fatto quei disgraziati dei sindacati, se non mi ricordo male. Cioè hai detto se non fosse per lui non avremmo neanche da mangiare. Ma ho detto anche quello, non ho problemi. Lei ha dei problemi sicuramente, perché chi sostiene queste cose è sicuro. Parenzo, ma no, perché? Ma che cazzo di problemi vuoi che abbia Parenzo? No, lei Parenzo ha dei problemi, sicuramente ha dei ma problemi. Ma perché lei mi deve dare lei che ho dei problemi, signor Parenzo? Ma lei io sicuramente non ho dei problemi. Cerco di vedere la storia. Ma come quale la vista intanto Panza, non me l'hai detto Gian... ancora. E quando Panza sento un comunista dirmi che poi la mano longa dei partigiani sono le Brigate Rosse, perché secondo i comunisti era gente che sbagliava. Cioè, secondo te, i successori dei partigiani sono le Brigate Rosse? Ma sono diventate le Brigate Rosse perché erano antisistema, no? Antisistema democristiano. Cioè, secondo per te cui le Brigate Rosse sono praticamente una specie di filiazione ma dei partigiani? Ma certo, una mano longa, una longa mano dei partigiani. Ma che cosa sta. Ma lei di che cosa si nutre? Ma no, scherzi. Ma lei beve alcol dalla mattina alla sera? Ma che ci sono i dogmi comunisti. Le Brigate Rosse. Le Brigate Rosse. Le Brigate Rosse. Ma che cosa sta dicendo? Ma non farmi ridere. Le Brigate Rosse facevano una lotta contro il sistema come i partigiani contro il sistema fascista. Ma che c'entrano le Brigate Rosse? Ma non per i coglioni. Ma i partigiani hanno liberato l'Italia, che c'entra la lotta di sistema, salame? Ma non l'ha liberato l'Italia, te l'ha liberata gli americani. Scusa, Masocco, per te cosa sono i partigiani? Cosa sono? Cosa? I partigiani non hanno fatto né più e né meno le stesse efferatezze che hanno fatto di là. Per te, tra partigiani e Mussolini, chi preferisci tu? Certamente io i partigiani non li preferisco, perché hanno ammazzato dopo il 25 aprile tre quarti d'Italia, il triangolo rosso e l'indimostrato. Meglio Mussolini, meglio Mussolini per l'Italia. Ma Mussolini certamente ha fatto delle opere pubbliche, cioè, ha fatto di più dei partigiani. Si è messo con Hitler ed è un coglione, e a quel punto lì ci ha rovinato. Comunque ha fatto di più. Ma se non stava con Hitler avevamo anche il petrolio in Libia, avevamo un sacco di cose. Beh sì, era sicuramente, però c'era la dittatura. Ti rimetti o no? Ma perché cazzo mi devo dire? Ma e te lo chiedono qua. Ma chi cazzo sono questi quattro coglioni qua? Ma chi cazzo sono? Non sono neanche stati eletti. Io perché mi dovrei dimettere, caro Cruciani? Beh, perché sono nullità questi signori. Per me sono delle nullità. Hai esaltato Mussolini all'interno di un consiglio comunale? No, io ho detto. Hai esaltato Mussolini? No, io non ho esaltato Mussolini, se no apologia di fascismo. Ma come? Questo paese nessuno sta in piedi per opere del Duce. Ha fatto Sondalo, ha fatto le stazioni, ha fatto le colonne per i bambini. Se non fosse per lui non avremmo neanche da mangiare. Se non è l'esaltazione questa, qual è l'esaltazione? Bisogna avere apologia, secondo te. No, io non lo so, è per un uomo che ha fatto qualcosa. Putin non sta facendo delle opere in ma non è la stessa cosa, dai, su. Ma che cazzo? E Stalin allora cosa ha fatto? Beh, Stalin appunto è un dittatore. Infatti è un dittatore. Tanti saluti. Ciao, ciao. Ti bacio, ciao. Adesso il bacio forse un po' troppo, Il bacio un po' troppo. Professore Masocco. Vabbè, dai ragazzi, Alessandro da Torino, mi dicono che è quello di venerdì. Che è successo, Alessandro? Alessandro. Pronto. Sì, dimmi Alessandro, che è successo? Senta, Cruciani. Ciao Alessandro, ciao. Ciao. Scusa. Dimmi tutto, perché hai richiamato, che è successo? Ho richiamato perché quella persona che hai richiamato dopo. Sì. Si si riferiva a un'altra persona col sì. mio nome che abita qua. Vabbè, adesso Alessandro ha detto che ti conosce, che ti vede uscire sì, e entrare sì. dalle comunità, dice non sostanzialmente che ancora ti fai, eccetera, eccetera. Ma non è vero. Non sei tu, d'accordo, non sei tu. Non sono io. Ok. Io ti posso dimostrare chi sì. è, chi non è sì. e chi ha parlato. E chi è questo qua che ha chiamato? Io il nome non me lo ricordo, viene con me giovedì. Carlo, Carlo si chiama. Ah! E chi è storia delle comunità di tossicodipendenti a Torino? Chi è? Ho capito, ho capito. Chi è sto Carlo? È uno di San Benigno. Uno di San Benigno, ma, gente, ragazzi, come si fa a conoscere tutto l'altro? Chi è Carlo di San Benigno? No, chi è? Perché io è un ex tossico pure lui? No, io sì. Sì, a anche pieno. A pieno. Ma siamo io... sul set del film Amore Tossico, che roba è? Cioè, ragazzi miei, aiutiamo questo no, signore, Alessandro, poverino, chiedere. Ma non è che facciamo tutta la mappa dei tossici ex attuali, se no facciamo il film Amore Tossico, Cristina F. Bellissimo. Sì, meraviglioso, per carità. Alessandro, no, non ma ho... non faccio nomi di nessuno. Beh, non fai i nomi non di nessuno, capito, nessuno però... deve fare i nomi. Io voglio capire una cosa, Alessandro. Carlo ci ha chiamato dicendo che tu ancora fai avanti e indietro, cioè sostanzialmente dicendo che ancora ti fai. Ma non è vero. Non è vero. Vabbè, sai, di solito possiamo giù, fare l'esame del capello retrattivo. Cioè, comunque non ti fai niente né cocaina, eroina, niente. Assolutamente. Sei pulito. Pulitissimo. Pulitissimo. Prendi farmaci. Sì, no, i farmaci per che cosa? Che capisce, il metadone che prendi? Come? Il metadone che prendi? No. No. Metadone no. No. Prendo la buprenorfina. Ma a che serve? Per calmarlo. Serve. Sai. Da essere l'antagonista a che cosa? Serve da toglierti la voglia. Ah, toglierti la voglia di cosa? Serve di... un intervento medico. Te lo però dico scusa, Alessandro, ma lui continuo. È già in cura perché non sta tanto bene con i reni. No, io 20 anni che sono in cura al CERT. È 20 anni che sei al CERT, però di solito al CERT ci sono i tossici, Lo so. Tossici che ancora magari cioè, da quant'è che non ti fai una pera? Questo voglio capire io È dal 2007 ci possiamo essere sicuri su questo, ma no, ma non per carità, poi uno può fare quello che vuole nella vita, però è per capire. Fatemi l'esame del capello. Siccome Alessandro sono arrivate diverse richieste di aiuto anche dalla Svizzera dicendo siamo disposti ad aiutarlo a farlo lavorare perché la situazione è drammatica, senza luce né acqua, aiutato dalla vicina per farlo mangiare eccetera eccetera, arrivano un sacco di telefonate così. No, per carità, è così, abbiamo fatto venerdì una lunga diretta radiofonica su questo, però bisogna avere delle sicurezze. Posso provare ad aiutarti oppure poi succede un casino perché tu fai avanti e indietro con la comunità, l'eroina, no, per carità, poi uno potrebbe essere aiutato anche in queste situazioni, però magari poi non sei in grado, capito? No, se mi aiuti mi fai un gran piacere. Certo. Stasera che cosa mangi? Bisogna vedere la mia vicina cosa mi manca. Com'è che si chiamava la mitica là? Monica, Barbara? Monica, Monica. A pranzo che hai mangiato? Oggi ho mangiato niente. Niente a pranzo? E quando è l'ultima niente volta che hai mangiato? A colazione? Lei... No, niente. Niente. Da quant'è che non mangi, scusa? Da ieri sera. Da ieri sera che non mangi? Nulla, colazione, niente, un caffè, un cappuccino, no, un cornetto, no, una brioche, nulla? No. Nulla, tutto il giorno vuoto? No, però devo prendere i farmaci. No, d'accordo, tutto il giorno senza nulla? No. Senza niente, però poi certo che uno sta male, no? Ma non è per quello. Beh, anche se uno non mangia. Perché se arrivo a sera poi... Ma l'alcol? L'alcol? L'alcol l'ho eliminato facendo 20 mesi di percorso. Sì. A Baldistero Canavese. Sì. Si chiama Alcol Stop. Alcol Stop. Però la voce tua è talmente impastata, talmente piena di... che per carità, mi sembra la voce ancora di qualcuno che se fa adesso. Io per carità, però l'impressione che abbiamo tutti è quella là, mi stanno scrivendo dei messaggi, un sacco di gente eccetera, l'impressione, poi per carità non sarà vero, l'impressione è quella di uno che ancora o si fa oppure beve eccetera eccetera, o no? Ma sono Cruciani, ma... No, per carità, ma io non dico niente. Ma avendo niente televisione, né radio, perché mi devo conservare le pile, allora che faccio? Dormo. No, dormo. Dice primo. Allora, quando mi sveglio, chiamo, sembra che sia fatto, impastato. Cioè, quando è che ti sei svegliato, scusa, adesso? Mezz'ora fa. Mezz'ora fa, vabbè. Alessandro, quanti anni hai tu, che non mi ricordo, 43, 44, 45? 45. 45 anni, vabbè Alessandro, cerchiamo di fare qualcosa, ciao, a presto, ciao. Ciao. Aiutami, Cristiano. Sì, Alessandro, però non ti deprimere troppo, Alessandro, non ti deprimere troppo, come hai passato la giornata di oggi, psicologicamente, di testa, come stai? Seduto su una sedia, guardando fuori. Guardando? Guardando fuori. Cioè, seduto su una sedia guardando fuori? Povero. Sì. Terribile. E ho dormito fino dalle 3 fino alle 5 e mezza. E poi mi sono addormentato fino alle 19:30. Ma a vestiti come sei messo? Come? A vestiti come sei messo? A merda. Cioè? A merda. Non ho niente. Non hai niente? C'ho un paio di pantaloni unico e un altro paio di pantaloni e basta. Ma io dico, ma gli assistenti sociali, ma non ci sono. Dai, questi assistenti sociali. Dai, è stato coinvolto anche il cosa, è stato coinvolto anche il comune di Volpiano. Qualcuno ha chiamato il comune di Volpiano, sta succedendo qualcosa, adesso vediamo che cosa si può fare. Quante hai? Quante robe hai addosso? Camicie, cose, che hai? Non ho niente. Ma è niente, amico mio, non è possibile mettere la stessa cosa da quanto tempo hai metti gli stessi pantaloni? Se uno non ha niente. Il letto, io cioè dentro qualche maglia, ma io sono un po' grosso. Ma dentro le maglie non mi vanno. Il letto ce l'hai? Sì, c'ho il divano. Il divano. Ah, divano, le scarpe? Le scarpe non ne ho più, scarpe quelle di 3 anni fa. Che mi fanno male agli alluci. Però continuo ad andare avanti con quelle. Che è e non mi lamento. È Parenzo, come al solito. No, ma perché ti lamenti? Un po' ti lamenti in realtà. Cioè, ti lamenti, hai chiamato chiedendo aiuto, eccetera, eccetera. Però sì. Alessandro, io ho paura che tu non sei in grado di lavorare poi, capito? Che non sei in grado di lavorare. Non perché ce la faccio. Ho capito, io come facciamo ad aiutarti se non sei in grado di lavorare? Però lavori fatti anche tagliare l'erba. Tagliare l'erba ci vuole la forza, amico mio. Comunque, vabbè. No, no, vabbè, ce la faccio. Ce la fai o no? Sì. Sì. Ragazzi, ci sentiamo domani, dai. Ciao, Alessandro, vai. Ciao, ciao. Stai su, eh. Stai su, vai. Oh. Stai su. Alessà, ciao. A domani, dai. È tutto finito, ma proprio tutto. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8:00. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.